una collagene proteine culturali per questo 2023 e io ovviamente torno a parlarne con Carolina e Alessandra. Ciao ragazze, bentornate. Sì, bentrovati, bentrovate e bentrovati tutte e tutti. Ciao a tutte e tutti, grazie. Domani tornate a tutti gli effetti, ma prima di parlare di domani vorrei parlare di questo 2023 che appunto appena iniziato, diciamo, come si prospetta, siete soddisfatte e come andrà, ecco, questo nuovo anno per collagene? Ma bene, siamo molto cariche, devo dire, per questa ripresa. Siamo molto contenti anche perché la prima parte, che è andata da ottobre a dicembre, è andata veramente molto bene. C'è stato un ottimo riscontro di pubblico, una buonissima partecipazione, quindi insomma siamo molto contenti anche di riprendere, anche un po' per riprendere le vecchie abitudini, residenze, eventi, aperture pubbliche, quindi insomma siamo contente. E domani appunto, come dicevi tu, ripartiamo, 17 febbraio, primo appuntamento, come sempre apriamo le porte alle 18, alle 20 poi inizieranno le performance. In questo caso avremo un progetto che doveva far parte della programmazione 2022, ma che per motivi di salute degli artisti è stato poi rimandato, e come promesso adesso lo recuperiamo. Questa prima serata avremo Box Studio numero 2 di Federico Pipì e Andrea Trona, che è una installazione performativa che metterà in scena, tra virgolette, un ring da box, e la performance sonora è incentrata proprio sull'utilizzo di oggetti e tecniche proprie del pugilato. E l'altro progetto di domani sera è Cam Girl di Monosportiva, del duo Eugenia Galli e Illo, che tornano con un concept sul sex work. Andranno a pulire musica elettronica e token music per raccontare temi quali la pornografia, l'autodeterminazione, le ossessioni, l'identità di genere. Questi saranno un po' gli appuntamenti di domani. Ne approfitto per dire anche questo, che abbiamo approfittato dell'apertura di domani per inaugurare lo spazio, che è stato chiuso per tanto tempo, proprio perché abbiamo fatto delle piccole modifiche, abbiamo fatto una ristrutturazione. E quindi domani chi verrà a DAS troverà un DAS leggermente nuovo. Esatto, fra queste novità 2023 partite domani con il botto, con l'inaugurazione dei nuovi spazi del DAS, e tra l'altro continua, anzi prende il via un progetto che avevate annunciato lo scorso anno, cioè Collagene Young, e qualche cosa si vedrà già domani del risultato di questo progetto. Sì, domani sarà anche l'occasione di presentare un lavoro che è stato curato a novembre 2022 con l'aiuto di Roberta Cacciatore, che ha seguito una classe di adolescenti a rischio di dispersione scolastica, insomma in situazioni di fragilità, e hanno fatto un laboratorio incentrato sulla street art. Il risultato di questo laboratorio è un murale che è stato fatto proprio all'interno di DAS, quindi domani sarà assolutamente visibile. Questo risultato è appunto il risultato di questo laboratorio, che è stata una messa in prova di un progetto che avevamo già annunciato a settembre, ovvero Collagene Young, appunto un progetto rivolto agli adolescenti che comincerà a marzo, sarà diviso in tre moduli, ogni modulo sarà concentrato su un linguaggio artistico specifico, e il risultato poi di questi percorsi verranno poi restituiti all'interno della rassegna Collagene Proteine Culturali attraverso un'apertura pubblica. Quindi abbiamo deciso così di far confluire un po' i due progetti. Quindi domani, venerdì 17, prima inaugurazione dei nuovi spazi di DAS, e poi parte Collagene con i suoi nuovi appuntamenti di proteine culturali, per cui segniamoci tutto per domani, venerdì 17, dalle 18 in poi. Ma in realtà siamo qui anche per parlare del prossimo appuntamento, che sarà i primi di marzo, precisamente il 3 marzo. Esatto, Rachele, a marzo avremo 3 appuntamenti, il primo dei quali sarà molto denso, perché avremo 3 progetti contemporaneamente e avremo 3 artisti, che sono Daniele Carcassi, Francesco Serra e Giulia Melli. Rispettivamente Daniele Carcassi ci porterà Nuova Terra, un progetto che è un'installazione sonora per 3 totem realizzati con altoparlanti. Ogni totem è appunto composto da 6 altoparlanti ed emana un proprio linguaggio. caratterizzato da un determinato materiale sonoro e i tre totem cercano continuamente un dialogo tra loro. Poi avremo Francesco Serra che ci porta il suo progetto Buried Reel, scusate, ed è un'installazione audiovisiva. In pratica lui ha girato in Super 8, in una zona della Sardegna, un film. Poi ha seppellito la pellicola e l'ha lasciata per 6 mesi sottoterra, e quindi gli agenti naturali, atmosferici, eccetera, hanno provocato il decadimento dell'emulsione della pellicola stessa, che va a raccontare un po' proprio quello che è la vitalità della natura anche quando non è visibile. E quindi il filmato sarà comunque proiettato con tutte le sue imperfezioni causate appunto dal tempo. E poi avremo sempre il 3 marzo Giulia Nelli con Ombra di un sospiro, un'installazione site specific che lavora attorno a temi come la frattura, le solitudini e i fallimenti. Utilizza dei materiali molto particolari quali le calze di nylon, elabora delle opere in grande formato, diciamo, su misura per l'ambiente. E quindi vi aspettiamo anche il 3 marzo con tanti progetti. Io, come sempre, ragazzi, rimango senza parole davanti alla selezione che avete fatto di questi progetti, performance e spettacoli, quindi ricordo ancora una volta venerdì 17 e il 3 marzo, e vi ringrazio per averceli raccontati. Grazie a te, grazie a tutti.